Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Homage to the Buddha, the blessed, noble, and fully self-awakened one. Omaggio al Buddha, il benedetto, il nobile, completamente illuminatosi da solo. So tonight I thought we would have a look at this dependence origination. E quindi stasera daremo un'occhiata a questa originazione dipendente. And we can start with the Buddha's victory verse. Possiamo iniziare con i versi della vittoria del Buddha. So this attempts to describe his joy at liberation. Questo cerca di descrivere la sua gioia per la liberazione. So he says, not having found, you could read that in Italian. Si può leggere in italiano. Cercando ma non trovando il costruttore della casa, ho viaggiato attraverso i cicli di innumerevoli nascite. More? Oh, yes, having... Have you got the English version? You haven't got the English, huh? I don't know whether I have an English version. Oh, it doesn't matter. Having is that the English? No, word? This one is Italian. Yeah. But I can give you English if somebody's got. C'è uno, sì. Puja, no. Guida, colloquio. Puja, no. There should have been, no. Strange, eh? Sì. No problem. It's not a problem. Have you got an English copy of it? Okay. Not to worry, I'll... No. Have you got the middle? Huh? No, I can translate. No, that's something else. Dalmatina. Ecco. Yep. Okay. So it says that having searched for the builder of this house, I've travelled through cycles of innumerable births. Quanto dolorose sono le nascite che si ripetono incessantemente. How painful is rebirth. Constant rebirth. Oh, costruttore di case, ora sei stato preso. Builder of the house, now I've seen you. Tu non costruirai di nuovo una casa. You're not going to build another house for me. I tuoi travetti sono stati rotti. Your rafters are broken. La tua trave maestra è stata demolita. And your house is demolished. La coscienza incondizionata è stata realizzata. The unconditioned consciousness has been realized. E ogni tipo di Brahma è stato distrutto. And all types, all impurities have been destroyed. So what he's saying here is that he's discovered the core problem of our suffering. E quello che dice qui è che lui ha trovato il problema centrale della sofferenza. And when he discovered that, there was a liberation completely from suffering. E quando scopre quello, c'è una liberazione completa dalla sofferenza. Now, don't get confused here. He still has physical pain. Non vi confondete, lui qui ha ancora dolore fisico. But all the pain that comes from emotional life, all that's gone. There's no impurity in his heart. Ma tutte le i dolori che arrivano, che vengono dalla vita emozionale, se ne sono andati, tutte le impurità. And I want to point to this this phrase which says la coscienza incondizionata, the unconditioned consciousness. See, the unconditioned now there's only one thing in the Buddha's teaching that's unconditioned. C'è un'unica cosa nell'insegnamento buddista che è incondizionata. And that's Nibbana. Ed è il Nibbana. Now Nibbana sometimes is translated, it depends on the on what route you want to choose for that word. Allora, la traduzione di Nibbana dipende da quale radice si sceglie per la traduzione. So some translate it as no desire. A volte è tradotto come nessun desiderio. But it would seem that the commentaries actually much prefer the unshackled. Ma nei commentari è preferita la traduzione senza catene. Senza catene. Ecco. Questo è difficile. Unshackled. What is it that's unshackled, where the chains have dropped off? Quando che cos'è senza catene? Quando le catene si sono staccate. It's this vijnana, it's consciousness. Questa è vijnana, coscienza. Yeah. Now here we also have to be careful because words are used differently by the Buddha in different situations. Bisogna stare attenti perché le parole sono usate dal Buddha in modo diverso in situazioni diverse. Now some of you will know the five khandhas, the five aggregates. Qualcuno di voi conosce i cinque khanda, i cinque aggregati? So the consciousness there is obviously not the consciousness he's talking about here. La coscienza di cui si parla lì non è quella di cui si parla qui. Because the consciousness of ordinary daily life is conditioned. Perché la coscienza della vita quotidiana ordinaria è condizionata. And the better word for this consciousness that he's talking about here is awareness. La migliore parola per la coscienza nell'accezione di cui si parla qui è awareness, consapevolezza. Consapevolezza, sì. Now Where is the Pali word for it here? For what? Oh, vijnana. Vijnana. Vijnana. Yeah. Excuse me. Thank you for that. It's citta. Citta. I'm getting confused. Yeah. Sorry. The word he's using here is citta, which means the heart mind. Sì, qui usa citta, che significa la mente-cuore. Ah, la mente-cuore. So, it would be our old word for the soul. E potrebbe essere una parola per anima. Ah, but here that's not what it means. Ma non è quello che intende qui. No, this again is used to refer to something which is completely transcendent of the psychophysical world. E qui usa per descrivere qualcosa che è completamente trascendente rispetto al mondo fisico. So now what you will find in Theravada Buddhism that there are these two types of interpretations. Nel buddismo Theravada ci sono questi due tipi di interpretazione. And it can be very confusing. E possono confondere parecchio. If on the one hand you have a very a way of describing Nibbana which is done by later works of the Abhidhamma. Allora, da una parte si hanno modi di descrivere il Nibbana che vengono da lavori più tardivi, come la Abhidhamma. And what you get there is a sense of not knowing what this Nibbana actually is. E lì si ha un senso di non sapere che cosa veramente è il Nibbana. Except that it is transcendent. Except? It is transcendent. Ah, eccetto il fatto che è trascendente. Mm. And without going into great, you know, too much detail, there is another collection of scriptures. Senza entrare troppo nel dettaglio, c'è un'altra collezione di scritture which come from the same age, che viene dalla stessa età, and they are only in Chinese. Ma sono solo in cinese. Ah, and in their Abhidhamma. Nell'Abhidhamma di quelle scritture. Yes, then the word sati now becomes something which is different from what it is with Theravada. La parola sati diventa differente da quella ha un altro significato rispetto a quello che ha di solito nel Theravada. Ah, so trying to describe or trying to say what sati is can be a little confusing because cercare di spiegare che cos'è sati può confondere. Because you'll hear perhaps some teachers say that it's just part of the mind. Alcuni insegnanti dicono che è una parte della mente. And other teachers will say no, it's something different. It's transcendent. E altri insegnanti dicono no, è diverso, è una cosa trascendente. I tend to follow the transcendent description of it. Io sono più incline a seguire la traduzione della trascendenza. Ah, because there are many phrases in the scriptures where the Buddha is pointing to that level of awareness. Ci sono molte frasi in cui, nelle scritture, in cui il Buddha indica quel livello di consapevolezza. Ah, so the reason I'm saying that is that I want you to understand that underneath this process there is this awareness. Allora, voglio che si capisca che sotto a tutto questo processo c'è questa consapevolezza, awareness. Yes, and when you're observing things, you've brought yourself back into that awareness. Quando si osservano le cose, ci si riporta dentro a quella consapevolezza. Even though it's not entirely pure, anche se non è completamente pura, because it still has a feeling of being a self, self-awareness. Non è completamente pura perché ancora c'ha un senso di essere un sé. Self-awareness. Self-awareness, yes. It's the last delusion, really. Veramente è l'ultima illusione. Mm. But the awareness is there, you see. Ma comunque la consapevolezza è lì. Eh? C'è. So when you're in that position of the observer, the feeler, and everything you see is an object, you are positioned in the transcendent moment. Allora, quando sei nella posizione dell'osservatore, ciò che osservi è l'oggetto, sei nella posizione, sei dentro al momento trascendente. Ah, the perceiver cannot be the perceived. Chi percepisce non può essere ciò che è percepito. Ah. Now, don't worry if you don't believe that. Non vi preoccupate se non ci credete. we're only discussing this process. Noi stiamo solo discutendo questo processo. Okay, so I just wanted to make clear that it's the awareness that becomes aware of this dependent origination. Allora, volevo chiarire che è la consapevolezza che diventa consapevole di questo processo della originazione dipendente. Ah. So you see it begins with avidya, which means ignoranza. this ignoranza is not something that is culpable. Allora si comincia con avidya, che significa ignoranza, ma è un'ignoranza che non è colpevole. Ah, it's not as though we should have known. Non è qualcosa che avremmo dovuto sapere. So the best translation really is not knowing. La migliore traduzione è non sapere. Ah, now not knowing becomes a condition for sankhara. Quindi il non sapere diventa una condizione per il sankhara. Okay, so sankhara are all our unwholesome habits based on this misunderstanding. Allora, sankhara sono tutte le nostre abitudini non salutari basate su questa concezione. So, what is the mistake we make? Qual è lo sbaglio che facciamo? What's the mistake we make? Say it to yourself, see if it's the same as I say. Vedete da voi che cosa può essere, vediamo se è lo stesso che pensa lui. What's the mistake we make? Qual è lo sbaglio che si fa? It's to believe we're human beings. We are human beings. Di credere che noi siamo esseri umani. Ah, it's a big mistake. È un grande sbaglio. Conventionally speaking, we are human beings. A un livello convenzionale, noi siamo esseri umani. This is indisputable. Non si può discutere. But what happens is that we then seek happiness in this form. Ma quello che succede qui è che noi cerchiamo la felicità in questa forma. Now, there is always a sense of anxiety with the self. C'è sempre un senso di ansia con il sé. Because deep down it knows it's not real. Perché giù dentro il sé knows it's sa not real. Che non è reale. Ah, so this becomes obvious as you move away from childhood and you realize that you're heading for death. E questo diventa chiaro via via che ti muovi da essere un bambino e fino a diventare adulto ti vai verso la morte. Ah, so now what happens is that because we identify with this form, we of course seek happiness there. Allora, quello che succede qui è che siccome noi ci identifichiamo con questa forma, noi cerchiamo la felicità in essa. Ah, and what we find is that the happiness we get from this form is never entirely satisfactory. E quello che succede è che la felicità che possiamo avere da questa forma non è mai interamente soddisfacente. Ah, but yet what we do is we feel happier the more we have. E quello che succede è che noi ci sentiamo più felici quanto più possediamo. Ah, more money is better than less money. Più soldi è meglio che meno soldi. More friends better than few friends. Molti amici meglio di pochi. More power better than little power. Molto potere è meglio di poco. So there is a process of acquisition. È un processo di acquisizione. Ah. And if you want the moral word for it is greed. E se si vuole una parola morale è la brama. La brama, greed, you see. So there's this process of acquisition. Now, when we have something, then of course we have to preserve it, we have to guard it. When we have something, collected something, we have to preserve it. Okay. We have to guard it. Naturalmente quando noi abbiamo qualcosa, poi bisogna preservarlo e tenerlo d'occhio. Keep all enemies away from what we have. Bisogna tenere tutti i nemici lontani da ciò che abbiamo. And so there you get your aversion. E quindi arriva l'avversione. Ah. Now when the enemy is too big, you have to run. Ma quando il nemico è troppo grosso, bisogna scappare. Ah, so there you have your next set of attitudes, aversion and fear. E qui arriva il successivo gruppo di attitudini che è l'avversione e la paura. Ah, so these three are running round each other. E queste tre si rincorrono l'una con l'altra. The ignorance, the acquisitiveness, and the anger fear. Sono l'ignoranza, il desiderio di acquisire e la paura e rabbia. Mm. So these have created all the habits that we have now that we see are unwholesome. These have created all the habits that we have now. Ah, questo ha creato tutte le abitudini che abbiamo ora che sono non salutari. Mm. Where am I? Oh yeah. Now, sankhara, these habits that we have, are dependent on consciousness. Sankhara, queste abitudini che abbiamo, sono dipendenti da coscienza. You have to think of consciousness like a screen, a television screen. Bisogna pensare alla coscienza come uno schermo televisivo. Mm. Without the ability of something to arise on the screen of consciousness, you wouldn't know them, of course. Se qualcosa non ha la possibilità di apparire su questo schermo della coscienza, tu non lo conosci. Ah. So the Buddha talks about them as being like two sheaves of wheat leaning against each other. Two sheaves of wheat. Wheat. Giunco. Grano. Rotoli di grana che si appoggiano uno contro l'altro. Ecco. Il Buddha parla. Parla di due covoni di grano che si appoggiano l'uno all'altro. Ah, so if the one falls off, the other one falls as well, E se cade uno, cade anche l'altro. And consciousness is something which is arising and passing away with every object that comes onto that screen. E la coscienza è qualcosa che insorge e svanisce con ogni oggetto che appare su quello schermo. Mm. It's and that's really what we need to begin to see, that everything is actually radically arising and passing away. E quindi tutto insorge e svanisce. That's what we really have to see. È quello che dobbiamo veramente vedere. When we begin to see that more clearly, then the idea of substance begins to disappear. Quando si comincia a vedere questo in modo più chiaro, l'idea di una sostanza comincia a scomparire. So remember, part of our process is to deconstruct everything, to see what it's made of. Ricordate che una parte del nostro processo è di decostruire e di vedere di che cosa sono fatte le cose. So this also takes away the sense of solidity. E anche questo porta via il senso di solidità. It's also true of objects. È vero anche per gli oggetti. I mean, when you see a car, there's a concept of an object, one object. Se vedete una macchina, c'è il concetto di un oggetto. But we know it's made up of all sorts of little bits and pieces. Ma si sa che è fatto di una serie di piccole pezzi, di parti. And when you lay all these out on the floor, would you call it a car? E quando lo fai a pezzi e li metti tutti su un pavimento, lo chiameresti ancora una macchina? No. You say, no. These are parts for a car. E sono sono i pezzi, le parti di un'automobile. So as you deconstruct this organism, you begin to see that the organism is a concept. Come decostruisci questo organismo, cominci a vedere che l'organismo è un concetto. It doesn't feel like that. It feels real. Ma non si sente in quel modo, si sente reale. But this is the delusion, E questa è l'illusione. So then you see, where are we? Dependent on consciousness, body and mind arise. indipendenza della coscienza insorgono il corpo-mente. Now the body here is not just the physical body that we experience. Il corpo di cui si dice qui non è il corpo fisico della nostra esperienza. Of course, when you ask yourself, what do you know of your body, then you begin to realize that actually you don't know very much. Quando ti chiedi che cosa conosco del mio corpo, si comincia a capire che non se ne conosce molto. So for instance, do you know what your liver is doing now? Ad esempio, sapete che cosa sta facendo ora il vostro fegato? Do you feel the blood corpuscles rising out of the marrow of your bone, through the bone and into the bloodstream? Have you experienced that? Sentite, avete esperienza dei corpuscoli del sangue che escono dal midollo osseo ed entrano nella circolazione? I have to believe the scientists. Bisogna credere agli scienziati, ai biologi. But what we can begin to perceive is that the body, that our contact with the body is of a different type than the contact with the mind. Quello che si può cominciare a percepire è che il contatto con il corpo è diverso dal contatto con la mente. And that contact with the body is known as the four great elements. Il contatto col corpo è four great elements. È costituito dai quattro grandi elementi. So most of you know it. It's the earth element. Quasi tutti li conoscete, l'elemento terra. So this means the hardness, the weight of something. Il peso, la durezza. And then there's the a fire element, which is the heat or cold. E poi c'è l'elemento fuoco, e quindi è il calore o il freddo. And then there's the water element. E poi l'elemento acqua. Which is the fluidity in the body. La fluidità del corpo. Elasticity. Elasticità. And then finally there's air, which refers to movement. Infine c'è l'aria che si riferisce al movimento. So when you're walking, doing walking meditation, see if you can distinguish these different elements. E quindi mentre fate la meditazione camminata, guardate se potete differenziare questi elementi. So the pressure of the foot on the ground is the earth element. La pressione del piede sul terreno è l'elemento terra. And then you might feel that weightiness as you lift the foot. E puoi sentire il peso quando tiri su il piede. And then there's the movement, you see. E poi c'è il movimento. Movimento, sì. So these and for liquid things you can feel it when you're eating, the liquidity of the food. E altro esempio, potete sentire l'elemento liquido nella liquidità del cibo quando si mangia. So what this means is that the mind is contacting the body, and it at the very base of it, this is what is actually feeling. This is what is actually. These are the basic sensations. Quindi la mente è in contatto col corpo e alla base di tutto ciò. There are these elements. Ci sono questi elementi. There are these elements. It gets a bit more difficult to see that with the eating, but the element of warmth, hardness, etc. will be there. È forse più difficile da vedere mangiando, ma ci sono anche gli elementi del calore, della durezza, anche quelli ci sono. Yeah, which are underneath the taste. Sono sotto al gusto. With the eye, it would be seen as a fire element. E con gli occhi si può vedere l'elemento fuoco. And with the ear, it's the earth element, pressure. Ah, ecco, l'orecchio è l'elemento terra perché è la pressione. So this is the separation of the body from the mind. Questa è la separazione del corpo dalla mente. Now the mind in the Buddha says that the mind is foremost. It's the mind that's creating the world. Il Buddha dice che la mente è foremost, the most important. È la più importante perché è la mente che crea il mondo. Ah, now you have to be careful here because some schools in Buddhism are very idealistic. Bisogna ora stare attenti. Ci sono delle scuole nel buddismo che sono molto idealistiche. Which means that the world does not exist outside your seeing of it. Questo significa il mondo non esiste al di fuori della vista che ne abbiamo. Ah, but the Buddha doesn't say that in the original scriptures. Nelle scritture originali il Buddha non dice questo. Ah. We definitely live in a world that we are creating. The mind is creating for us. The body-mind is creating for us. Allora, viviamo sicuramente in un mondo che è creato dalla mente-corpo. But the world out there exists independent of us. Independent of us. Ah, independent. Sì. Ma comunque il mondo là fuori esiste indipendentemente da noi. Ah. So it's interesting to contemplate that there's actually no light in the universe. The universe is completely dark. È interessante contemplare che non c'è la luce nell'universo. L'universo è completamente buio. Ah, it's only because we have eyes that can discern photons that we have light. È solo perché abbiamo gli occhi che ci sono che sono sensibili ai fotoni, per cui abbiamo per noi è luce. Ah, and there's no sounds in the universe. Non c'è suono nell'universo. No, you have to have ears to hear to distinguish certain types of pressure, which we call hearing. Bisogna avere gli orecchi per distinguere tra certe differenze di pressione che noi chiamiamo il sentire. Sentire. So this takes us into the next one that dependent on this combination of the physical. Our physical nature, which is part of the natural world, this takes us to the next step. Ah, questo ci porta al prossimo passo. Now I've forgotten, you see. Me too. I don't know. Anyway, next step. That's right. Dependent on this physical world. Dependent on the physical. Indipendenza del mondo fisico. And the mind which is interpreting. E la mente che lo interpreta. It can only do so through the six senses. E lo può fare solo attraverso i sei sensi. So the ordinary five physical ones. Oui. The ordinary five physical senses. Ah, ok. Noi abbiamo ordinariamente cinque sensi fisici. But the other sense in Buddhism is the mind. L'altro senso nel buddismo è la mente. So where the mind touches the brain, that would be in Buddhism a sense base. La mente, il cervello sarebbe nel buddismo una base sensoriale. The Buddha's teaching wouldn't agree with a materialist view of life. L'insegnamento buddista non sarebbe d'accordo con una veduta materialistica della vita. That consciousness arises out of matter. Che la coscienza insorge dalla materia. An emergent property, as it's known. È una proprietà emergente. Dalla materia. Yeah. In the Buddha's understanding, these are two quite separate forms of energy. E nella concezione buddista queste sono due forme separate di energia. And at death, of course, this mental body separates from the physical. E alla morte, naturalmente, il corpo mentale si separa da quello fisico. Yeah, we can talk about that later when we come to karma. Ma di questo se ne parla dopo quando si parla del karma. See, now once we have a sense base and we have an object and there is consciousness, then we have what's called contact. Allora, al momento che abbiamo una base sensoriale, abbiamo un oggetto, e a quel punto c'è il contatto. Ah, so for instance, if there's an object and my sense base, my eye, sees it and there's a consciousness of it, then we call that contact. Ah, ok, anche la coscienza c'era. Quindi al momento che c'è l'occhio, un oggetto, io lo vedo, quindi c'è la coscienza e c'è il contatto. Yeah. If any of those are missing, then of course you don't see anything. Se uno di questi manca, non c'è la visione. So if there's no light, you don't see anything. If there's no eyes, you don't see anything. And if you're asleep, you don't see anything. Se non c'è luce, non si vede nulla. Se non c'è l'occhio, non si vede nulla. E se sei addormentato, non vedi nulla. Guarda. So, in the Buddhist psychology, those three things have to be there for us to experience something. Nella psicologia buddista queste tre cose devono essere insieme per avere l'esperienza di qualcosa. And inwardly, of course, it's the sense base of our emotions and thoughts and images. E, dal punto di vista interiore la base sensoriale delle emozioni e imagination, yes. Now, it's the next bit is where we determine that what we're experiencing is either pleasant or unpleasant. Il prossimo passo è quando noi andiamo a determinare se quello di cui facciamo esperienza è piacevole o spiacevole. There are things that you can call neutral. Ci sono anche cose che si possono definire neutrali. But if you look very closely, you'll see that they shade into unpleasant or pleasant. Ma se ci si guarda molto attentamente, si vede che si sfumano nel piacevole o nello spiacevole. So this is the dual world that we live in. Questo è il mondo duale in cui viviamo. Every moment of our lives is either pleasant or unpleasant. Ogni momento della nostra vita è piacevole o spiacevole. Unless we're asleep. Unless we're asleep. O a meno che non stiamo dormendo. And that's why we like to sleep. È questo. We don't want to get involved with pleasant or unpleasant. E questo è il motivo per cui ci piace dormire, così non ci si coinvolge col piacevole e spiacevole. It's the next link which is really important, eh? Il prossimo passo è quello veramente importante. And this word tanha is our reaction. E tanha è la nostra reazione. So obviously we've been talking about this all week, eh? E naturalmente ne abbiamo parlato per tutta la settimana. How we are grasping onto something, trying to maintain and develop what is pleasant. E nel modo in cui afferriamo qualcosa cercando di mantenerlo se è piacevole. And how we're pushing away or turning away from what is unpleasant. E invece al contrario come si spinge via qualcosa che è spiacevole. This is the second noble truth. Questa è la seconda nobile verità. So he framed his teachings into these four truths, these four facts. Lui ha messo nello schema questi insegnamenti sono stati messi anche nello schema delle quattro nobili verità. So the first one is obvious. There is unsatisfactoriness. There is suffering. La prima è ovvia, cioè non c'è c'è la il l'insoddisfazione. Esiste l'insoddisfazione. And the second one is that the cause of this is this type of desire. E la seconda dice che la causa di l'insoddisfazione è questo tipo di desiderio. So remember that there are desires which are good, which we should actually activate. E ricordateci, sono dei desideri che sono buoni, che noi dovremmo seguire. Such as the desire to meditate. Come il desiderio di meditare. But these desires that are based on the three those three poisons, as they're known, those three roots. But the desire based on those three roots. The unwholesome. Unwholesome roots. E allora, ma i desideri basati su queste tre radici. The ignorance, the greed, ignorance, acquisitiveness, and aversion, fear. E sono l'ignoranza, il desiderio di trattenere e l'avversione, paura. Seeing that combination there, that's the escape. E guardando a questa combinazione, lì c'è la via di scampo. So remember, when you're sitting here, for instance, and there's pain in the knee. Ad esempio, quando voi siete seduti e c'è un dolore nel ginocchio. So the first is the aversion, don't want it. La prima cosa è l'avversione, io non lo voglio. But we if you're not quick enough, we see the second reaction to it, which is move your knee. Move the knee. E se non siamo veloci abbastanza, noi vediamo la reazione a questo, che è muovere il ginocchio. So the desire to put an end to suffering is based on an aversion of the pain. Quindi il desiderio di mettere fine alla sofferenza nel ginocchio è dovuto a un'avversione verso il dolore. So if we are very still and we see that process, we are not actually reinforcing it. Se noi siamo molto fermi e vediamo questo processo, noi possiamo non rinforzarlo. And in so the reaction begins to die away. E in questo modo la reazione comincia a svanire. And then we find ourselves equanimous, peaceful, at peace with the pain. E noi ci troviamo equanimi, cioè in pace col dolore. At that point, you know, when you get to that point, say to yourself, although there is pain, there is no suffering. E quando si arriva a questo punto, vi potete dire, sebbene ci sia dolore, non c'è sofferenza. So the Buddha points out that there is dukkha, there's the suffering of pain, that's the problem. Allora il Buddha fa notare che c'è dukkha, cioè la sofferenza del dolore, e questo è il problema. This is the problem, you see. So we begin to see that actually, if I make it an object of my awareness, the awareness itself is not suffering. Allora, se io faccio... I make that an object, the pain and the aversion. Se io faccio del dolore e dell'avversione un oggetto, then, la consapevolezza non soffre. You've got to see that. Dovete vedere questo. Got to be aware of it. So the Buddha also talks about two darts, two arrows. Il Buddha parla anche delle due frecce. So the first arrow is the pain in the knee. La prima freccia è il dolore nel ginocchio. The second one is our aversion. E la seconda è la nostra avversione. See? So you have to separate those to be very clear as to where the problem lies. It lies in relationship. Allora, bisogna separare queste due per fare chiarezza su dove sta il problema. Il problema sta nell'avversione. Sì, and you can see that transfers into relationship. E questo si trasferisce anche nelle relazioni. Nobody can make you angry, nobody can hurt you. This is all internal reactions. Nessuno si può far diventare arrabbiati perché è solamente una reazione interna, interiore. Interiore. This is what we've taught ourselves to react to certain types of people, certain types of behavior. Questo è ciò che ci siamo insegnati, come reagire a certi tipi di persone, certi tipi di comportamenti. See? So you can no longer blame your spouse for your misery. Quindi non potete più dare la colpa a vostra moglie per il vostro star male. Non solo la moglie, anche del marito. Ed anche del marito, as well. So you can stop blaming people for the mental state that you're suffering. Quindi si può smettere di incolpare le persone per lo stato mentale che noi stiamo soffrendo. Yeah. So remember, if my suffering was caused by other people, how could I bring an end to my suffering? Ricordate, se la mia sofferenza fosse causata dalle altre persone, come potrei io mettere fine a questa sofferenza? I'd have to get rid of all the people who upset me. Dovrei liberarmi di tutte le persone che mi disturbano. It's the fact that we cause our own suffering where the liberation becomes possible. Il fatto è che noi causiamo la nostra sofferenza, per cui la liberazione è possibile. Now the next step, you see, is so subtle that we don't actually see it. Il prossimo passo è così sottile che noi non lo vediamo proprio. Actually, you can, but you've got to be really, really bright and aware. Cioè, in realtà si può vedere, ma bisogna essere molto molto consapevoli, molto brillanti. And that is the point of identity. E questo è il punto dell'identificazione. You see, we've discovered that physical pain or emotional pain is not actually suffering, it's just unpleasant. Allora, abbiamo scoperto che il dolore non è la sofferenza, ma è solamente spiacevole. Both mental and physical, eh? Sia mentale che fisico. We've seen that when we can observe it, the reaction of aversion and fear doesn't actually make us suffer, even though it's unpleasant. Allora, quando noi lo osserviamo, the reaction of fear or aversion, quando noi osserviamo la reazione della paura e dell'avversione, although it's unpleasant, we're not suffering. E sebbene è spiacevole, ma non c'è sofferenza. But at the point of identity, upadana, you are the pain, you are the emotion. Ma al punto dell'identificazione upadana, tu sei il dolore, tu sei l'emozione. That's when you say, you know, I am, you know, I'm angry or I'm, you know, etc. And you behave, it expresses itself in the way you speak and act. E quello è il momento in cui si dice, io sono arrabbiato, e quindi di conseguenza c'è un comportamento e tu parli da questo. This identity is the moment when we actually begin to suffer. Questa identificazione è il momento in cui realmente si comincia a soffrire. If you're having a hard time and you're saying to yourself, you know, why does this happen to me? Why not to everybody else? You know? Se stai avendo un brutto momento e cominci a dire, perché succede a me? Perché non a un altro? You see? Then you might not be aware of it, but you are in a state of suffering. Puoi non esserne cosciente, ma sei in uno stato di sofferenza. I once saw a cartoon. Una volta ho visto un cartone animato. And there's a woman in bed, obviously dying. Una donna a letto che stava morendo. And many friends were around the bed. E c'erano molti amici intorno al letto. And she said, "Why me? Why not one of you?" E lei disse, perché io e perché non uno di voi? So she's suffering, eh? E stava soffrendo. So now the next link is the point of action, bhava. Il prossimo passo è il punto dell'azione, bhava. As soon as the identity is there, then there is a commitment. appena c'è l'identificazione c'è un impegno. And this commitment manifests as an energy. Che si manifesta come un'energia. And there's an action. E c'è un'azione. Now I've been pointing out that when we eat there's that moment of intending to eat. Allora, quando mangiamo c'è un momento in cui c'è l'intenzione di mangiare. Now you can stay in that intending to eat feeling for quite some time. E si può stare in questo momento in intenzione di mangiare sentendo per un po' di tempo. Ah, and nothing ever happens. E non succede nulla. But at some point you have to commit to that and the energy goes in and suddenly you're picking up the fork. Ma a un certo punto ti impegni in questo e ci va dentro l'energia e allora prendi la forchetta. So that moment is an action. Quel momento è un'azione. It's the empowerment of the will. È il dare potere alla volontà. And because of the identity, a self is created. E a causa dell'identificazione si crea un sé. So this sense of self is always being recreated. Quindi questo senso del sé è continuamente ricreato. Ah, see? So there's nothing stable about the sense of self. It arises with every action, or prior to every action. Allora, non c'è niente di stabile nel senso del sé, perché insorge con ogni azione o subito prima di ogni azione. Whether the action is one of thinking, or speaking, or doing. Sia che la reazione sia di pensare, di parlare o di fare. And then once you've done that, of course, there's the beginning of an action, the process, and the end. E quando hai fatto questo, c'è l'inizio dell'azione, il processo e la fine. Ah. So sometimes this is taught, remember, as three lives. A volte questo viene ricordato come tre vite. Ah, so that when we are born, we are born with the ignorance and the habits of our past lives. E quando si nasce con l'ignoranza e le abitudini delle vite passate. And then when we die, we go through another cycle carrying the new habits with us. E quando si muore si va incontro a un nuovo ciclo portando le nuove abitudini. Ah, but of course we're doing it every day, eh? Ma naturalmente questo succede ogni giorno. So there are these two teachings. One is more immediate and one is to do with rebirth. Ci sono dentro questi due insegnamenti, uno è più nell'immediato e l'altro ha a che fare con le rinascite. And it's because the self is constantly being recreated that we don't call it reincarnation. E a causa del fatto che il sé è costantemente ricreato, noi non la chiamiamo reincarnazione. Nothing is actually the self. It's not the same self. In realtà il sé non è lo stesso sé. Yeah. So that's the process. Now the reverse process. Questo è il processo. Il processo inverso. Really, there are two points where this whole what the Buddha calls a casa, this whole edifice completely collapses. Ci sono due punti, quella che il Buddha chiama casa, questo edificio che si collassa completamente. The one we've discussed, this where the desire arises, the wrong desire arises. Allora, quello che abbiamo discusso è quando insorge un desiderio sbagliato. So we can say that one moment of wrong desire has arisen, but because we've not empowered it, it's died away. Allora possiamo dire che One moment when a desire arises. Al momento in cui insorge il desiderio, noi non gli diamo potere, se ne va. Ah, see? So even in that moment, you see, we've broken down some of the rafters in the roof. In quel momento anche noi abbiamo rotto alcuni dei travetti del tetto. So that's where we're looking at the characteristic of suffering, desire. Noi stiamo guardando le caratteristiche della sofferenza, il desiderio. But at base we attack the problem of ignorance. Ma alla base si attacca il problema dell'ignoranza. And that's every time that we see that things are truly impermanent. Ogni volta che vediamo che le cose sono veramente impermanenti, that they're truly not substantial, che non sono veramente non insostanziali, and that our control over our lives is superficial, e il nostro controllo sulle nostre vite è superficiale, then we are cutting, we're actually beginning to destroy the foundations of this edifice. Noi stiamo cominciando a distruggere le fondamenta di questo edificio. So that's why it begins with, when ignorance comes to an end, unwholesome habits come to an end. E questo è il motivo per cui inizia dicendo che quando l'ignoranza arriva a una fine, tutte le nostre abitudini non salutari arrivano alla fine. See, it starts from the bottom, up, see, slowly undoing all the bad habits that we have. E comincia dal fondo verso il su, e comincia a disfarsi le nostre cattive abitudini. Yeah, see. And that's this is encapsulated in the verses of Vipassana. Questo è incapsulato nei versi di Vipassana. That's why we chant them, yeah. Quello che cantiamo. So that in a very short way is understanding this dependent origination. Questo in un modo molto veloce è la concezione della originazione dipendente. And it's the Buddha just trying to make clear for us how we can undermine, how we can completely eradicate all our suffering. Il Buddha sta cercando di chiarirci come noi possiamo diminuire e completamente sradicare tutte le nostre sofferenze. Once you begin to see how it works, then you do begin to see the possibility that there really is an end to suffering. E quando cominciate a vedere come funziona, allora cominciate a capire che c'è una possibilità di portare a una fine la sofferenza, veramente. The Buddha was much more interested in process, how we become a human being, not the question what is a human being. Ah, il Buddha era più interessato nel processo di come si diventa un essere umano, non del perché. Not what or why. No, non cosa o perché. Okay. Oh, I can only hope my words have been of some assistance. Posso solo sperare che le mie parole vi siano servite. That I have not created even more confusion. E che io non vi abbia causato maggiore confusione. But by your insight into dependent origination. E attraverso la vostra intuizione nella originazione dipendente. You will be liberated from all suffering. E sarete liberati da tutte le sofferenze. Sooner rather than later. Prima piuttosto che dopo. Ecco. Sadhu. Okay, so we have some walking meditation. E ora un po' di meditazione camminata. Can you ring the bell for the next sitting, to finish the next sitting? Yes. Mm-hmm.